Questa è la storia di Pippo Prosciutto, che voleva sempre avere tutto. Fin da piccolo, pedalando sul suo trabiccolo, quando incontrava gli altri bimbi belli, strappava loro tutti i capelli. Li voleva tutti per sé. Perché? Perché era Pippo Prosciutto e voleva sempre tutto. Con la colla spalmata sulla crapa pelata, attaccava tutti insieme quei capelli posticci, riccioli, lisci, biondi o rossicci. Così, quando la sera a letto la mamma lo carezzava, a seconda dei capelli che la mano materna sfiorava, lui per lei non era più solo Pippuccio, ma anche Carletto, Renato e Ricuccio. Di mamma, però, una sola non gli bastava. Quelle degli altri se le affittava, per un giorno, per due, per una sola notte, e chi non ci stava, allora erano botte. Ma non erano sue le pestate, anche quelle erano comprate. Lui di suo era tappo e mingherlino. I pestaggi li facevano Giacomo e Rino, due spilungoni sordidi e fetenti che alle scuole materne erano già ripetenti e che poi alle elementari divennero suoi sicuri sicari. Fin da subito, sui banchi di scuola, imparò come fare a tirare una sola. A farsi suoi alleati, quelli più disgraziati, suoi amici contenti, quelli più potenti. Con spiate, spifferate, delazioni e ricattucci, tenne ben presto in pugno tutti i suoi compagnucci. Alla mensa della scuola, nel refettorio, si pappava il piatto di Mario e pure quello di Vittorio. Arraffava cibarie dai piatti di tutti, fossero belli o fossero brutti, li voleva tutti per sé. Perché? Perché era Pippo Prosciutto e voleva sempre tutto. Pippo, Pippo Prosciutto, vuoi sempre tutto, vuoi sempre tutto. Bibite, paste asciutte, panini, patatine, ben presto entrò nel racket delle merendine. Intercettava le merende pagandole all'ingrosso, le teneva ben bene nascoste dentro un fosso e quando gli alunni tenuti a stecchetto smaniavano persi per qualche pezzetto, spacciava le merendine a piccole dosi, fuori di scuola, a prezzi assai esosi. Arrivato alle scuole elementari si comprò i bidelli a suon di denari. Il direttore Gianni Carlotto in pochi giorni l'aveva già corrotto. Mentre la maestra Elina Buttafaga fu fin da subito sul suo libro paga. Quando c'era un tema, riassunto, problemino, Pippo Prosciutto non muoveva un ditino, metteva la sua firma sotto il compito migliore, strizzando l'occhio al compiacente professore, ma siccome voleva proprio tutto, metteva la firma anche al compito più brutto. Li firmava tutti, in ordine alfabetico, fino a Zanni Eraldo, il figlio dell'ortopedico. Li voleva tutti per sé. Perché? Perché era Pippo Prosciutto e voleva sempre tutto! Pippo, è Pippo Prosciutto, vuoi sempre tutto, vuoi sempre tutto! Senza aver mai letto un libro dalla A alla Z, alla fine delle superiori era di fatto analfabeta. Ma questo particolare non lo crucciò. A pieni voti il diploma se lo comprò. Lo acquistò con una corta bustarella infilata con mano svelta alla scappatella nelle tasche dei membri della commissione, un po' per ciascuno, senza eccezione. Alla fine di quel luglio assolato, per non perdere altro tempo, si fece laureato. E per sentirsi ancor più rassicurato, acquistò un mazzetto di lauree a prezzo scontato. Prese la laurea in Brianzola Mobileria, in Padana Tappezzeria, in Barzelletteria Meneghina e in Palazzineria Cisalpina. Per sentirsi più realizzato si prese pure un dottorato. Si specializzò in cose d'arte, quel che poteva arraffare e mettere da parte, accendisida, bigiotteria, vini d'annata, pellicceria. Li voleva tutti per sé. Perché? Perché? Perché era Pippo Prosciutto e voleva sempre avere tutto. E Pippo Prosciutto, vuoi sempre tutto, vuoi sempre tutto. In quello stesso autunno, come un barbaro unno, ignorante come una capra, incolto come una rapa, vuoto come una vuota crapa, Pippo Prosciutto s'affacciò sul mondo, lo mirò tutto, tondo tondo, e capì, con una lacrima di commozione, che era tempo di passare all'azione. Anzi, alle azioni, comprandole e rivendendole con finte traslazioni, giochetti di prestigio tra banche, filiali, prestanome e false succursali, cose di poco conto, da conto corrente, tanto per fregare un po' di gente. Quel che lui agognava era ben altro, lui voleva sbancare il banco, prendere tutto il campo, ma per far questo non bastava l'insolvenza, ci voleva una sana delinquenza. Grazie alle sue amicizie malviventi si fece prestare gruzzoli ingenti. Col malloppo si fece corruttore e in poco tempo divenne costruttore. Per non farsi rompere le uova nel paniere divenne pure prefetto, architetto e ingegnere. Ma la natura, gli alberi, il paesaggio gli sembravano un evidente oltraggio. Facevano perdere troppo tempo alle sue opere di sbancamento. Lui amava il cemento perché era sempre armato, pronto per essere sparato, steso e spalmato su coste, scogli, parchi, sull'intero creato. Non avendo in mano manco un mestiere, comprò per prima cosa il titolo di cavaliere. E già che c'era si fece pure banchiere, faccendiere, bancarottiere e puttaniere. Provò anche a essere barbiere, carpentiere, portiere e brigadiere, ma per questi mestieri bisognava sudare. Lui era più bravo invece a infinocchiare, a sparlare, a sproloquiare, a promettere e poi negare, a dire per poi ritrattare, a barare, truffare, adulare e al contempo minacciare. Gli serviva solo un luogo, un posto, un'occasione dove far valere la sua fascinazione, e quel posto, lo sapeva Benone, era lo schermo della televisione. Lì non occorreva saper leggere o scrivere, lì bastava solo apparire. Apparire e dire frasi fatte, battute a effetto, boatte, barzellette, slogan, dichiarazioni, promesse a vanvera di buone intenzioni, spalancare la bocca e dargli fiato a chi grida di più, a chi è più maleducato, lì vince il cafone, lì trionfa il coglione. Eccolo il posto per lui, che gran soddisfazione. Parlare a vanvera per 3 ore filate, sparando in fila soltanto cazzate, fissando con finto sorriso di denti imbiancati milioni di fessi telecomandati, tutti incantati a bersi contenti i suoi 1001 imbonimenti. Per avere sorrisi più smaglianti e taglienti si fece raddoppiare le file dei denti. A destra, poco sotto la aorta, si fece impiantare un fegato di scorta. Di peli sullo stomaco come una cresta si trapiantò una nuova foresta, e con nuovi frammenti di ossa lucenti tolte alle gambe di creditori insolventi si fece crescere di altezza, grugnendo di contentezza. Per ciò che riguarda i capelli, continuò come prima, coi bambini belli, entravano riccioluti nella sua villa privata e uscivano piangendo con la testa rapata. Visto il successo e l'andazzo, di slancio si lanciò come un razzo. Si dedicò all'acquisto mediatico. Cominciò subito da Cesenatico, comprando a strozzo una TV locale per trasformarla in un porno canale. Comprò televisioni satellitari, canali ascellari, emittenti condominiali. Comprò testate di giornali, teste di intellettuali, truppe di giornalisti venali, eserciti di pubblicisti, variamente opinionisti, anime innocenti di esimi docenti. Li voleva tutti per sé. Perché? Perché era Pippo Prosciutto e voleva sempre avere tutto. E Pippo, Pippo Prosciutto, vuoi sempre tutto, vuoi sempre, sempre tutto. Per ciò che riguardava l'eros e il sesso, a lui più che altro piaceva il possesso. Lui era per il mordi e fuggi, lo stupro, il ratto, la sveltina in fretta e furia fatta di scatto. Non poteva perdere il suo prezioso tempo con le pastoie del sentimento, perdere le sue preziose ore con le cose dell'amore. La donna per lui era un di più, da tenere magari in schiavitù. Lui era per il sultanato, ecco, era per l'harem, il califfato. Amava le sveltine fatte con le ragazzine, sbavava per le diciottenni, meglio ancora se ultra minorenni. Ma le sue prestazioni amorose in realtà erano catastroficamente penose, erano fiacche, deludenti, del tutto deprimenti. Così, per sentirsi più potente e grande, si fece rifare un nuovo glande, con un prepuzio gigante in silicone strabordante. Così, nelle riunioni importanti, tra banchieri, trafficanti, politici e governanti, lui di colpo si apriva la patta davanti e mostrava a tutti i suoi trapianti, con una delle sue battute pesanti per far colpo sugli astanti e chiudere gli affari in pochi istanti. Per avere ancor più libere le mani, trattando affari zozzi come fossero sani, per arraffare ancor più speditamente, entrò in politica a tambur battente. Comprò subito un partito, lo chiamò Pinco Pallino, e con un nome così cretino mise tutti nel cestino. Vinse le elezioni, si trapiantò altri 2 coglioni, divenne presidente e tutti i ministri insieme contemporaneamente. Si fece fare un governo su misura, confezionato sulla sua nanometrica statura. Per non avere conflitti interessati, si comprò tutti i deputati. Per non avere facilitazioni in borsa, se la comprò tutta quanta di corsa. Comprò pure le zecche di Stato, gli acari del Senato e i pidocchi di ogni singolo deputato. Poi acquistò le banche, tutte quante, e poi pure i banconi e le panche. Le sedute parlamentari erano molto particolari, si facevano in ginocchio, dopo aver strizzato l'occhio e prestato solenne giuramento al nuovo boss del Parlamento. Dalla sera alla mattina acquistò la Marina. Con un'ultima furfanteria comprò aviazione e fanteria, e così, quando sfilava per la via centrale vestito in pompa magna da generale, tutto l'esercito lo seguiva intruppato come guardia del corpo moltiplicato. Ma per avere le spalle più coperte, le nuove palle più protette, oltre che bacchettone, divenne pure massone. Poi si fece piduista, mafioso, camorrista, dalla Sacra Corona Unita, seduta stante, si fece eleggere re delle terre di Levante. Ma come per la mamma che tanto amava, una sola nazione non gli bastava. Le voleva tutte per sé. Perché? Perché era Pippo Prosciutto e voleva sempre avere tutto. Pippo, Pippo Prosciutto, vuoi sempre tutto, vuoi sempre tutto. Invase la Francia con televisive prestazioni. In Germania eliminò le libere elezioni. Dopo aver comprato la Danimarca, di tutta l'Europa si fece far monarca. Nelle regioni russe, abituate al centrismo, ripristinò di nuovo lo zarismo. E con un colpo di clacson, di Stato e di mano, si fece supremo sovrano in una sola mattina di tutta l'America Latina. Acquistò gli Stati Uniti a prezzi scontati per via di certi debitucci non saldati. Entrò a cavallo nel suo nuovo stato americano con un vestito un po' pacchiano da mandriano texano, ma per via della sua disastrata statura entrò in groppa ad un'insolita cavalcatura, un cavalluccio a dondolo di legno portato a spalla da tutti i sudditi del regno. Mandò poi Giacomo e Rino, che nel frattempo s'eran fatti killer di fino, dagli asiatici e dagli africani a intimargli di alzare le mani, e con poche raffiche di mitragliatore si fece proclamare imperatore. Avendogli preso ormai la Smania, divenne pure gran visir dell'Oceania, califfo a vita dell'Arabia Saudita, e per finire alla grande in pochi mesi divenne pure re degli eschimesi. Per prendersi altre soddisfazioni si diede da fare con le religioni. Con un po' di furbizia comprò la veste cardinalizia. Appena preso il porporato, puntò subito al papato. Comprò San Pietro a un prezzo stracciato. La domenica appariva dal balcone, impartendo la gran benedizione. Staccando un assegnino divenne gran rabbino e con un'ultima zampata, gnam, divenne imam di tutto l'Islam. Si fece anche illuminato buddista, sacerdote induista, sciamano shintoista e stregone animista. Quando ormai aveva per sé il mondo intero, quando ogni cosa era sotto il suo impero, quando ormai ogni filo d'erba apparteneva alla sua smisurata riserva, ecco che un bel giorno Pippo Prosciutto si sentì di colpo prostrato e distrutto. Tutto quel che voleva aveva a disposizione, eppure nel gozzo sentiva come un magone. Sentiva che nonostante tutto era rimasto pur sempre soltanto un prosciutto. Non trovando soluzione a questa improvvisa frustrazione, stava già per cadere in depressione quando vide sul marciapiede camminare una donna con la pancia al nono mese sotto una rossa gonna. Alla vista di quel suo bel pancione, Pippo Prosciutto ebbe come un'illuminazione. Per la prima volta nella sua esistenza fece del pensiero subitanea esperienza, quasi una sequenza di pensamento, tanto che ne ebbe spavento. Pensò che il potere più grande che c'è è poter essere quello che ancora non si è. Ecco cosa doveva fare. Un embrione doveva diventare, all'istante, senza più aspettare. Subito, in poche ore, radunò il fior fiore della scienza interplanetaria, dalla veterinaria alla culinaria. Radunò i più perversi criminali delle ingegnerie genetiche mondiali. Quando tutto fu pronto per l'operazione, dandosi da solo la papale benedizione, ordinò di schiacciare il bottone. Con uno scorreggino al sincrotone si trovò trasformato in un embrione. Si sentì subito benone in quella nuova condizione. Ora davvero Pippo Prosciutto poteva diventare proprio tutto. Questo nuovo sentimento di pienezza lo fece gorgogliare di contentezza, ma galleggiando in quella brodaglia primordiale venne colpito da un pensiero un po' confusionale, metamorficamente esotico, come è giusto che sia il pensare caotico di un embrione cianotico. Nei suoi recessi e pertugi embrionali sentì che da scoprire c'erano altri canali. Intuì che al fondo di quella poca presenza stava forse del potere, la vera quintessenza, sì. Doveva ancora cogliere il frutto per essere davvero tutto. Dall'eccitazione gli scappò un rutto. Con un sussulto, questo suo singulto per codici embrionali del tutto virtuali arrivò alla centrale operativa, sempre attenta, pronta e attiva. L'embrione Pippo Prosciutto, che comunque come embrione era pur sempre di tutti quanti il padrone, ordinava si cercasse un'altra possibilità per potenziare le sue potenzialità. Che la trovassero subito in 448, altrimenti da embrione avrebbe fatto un 48. Preoccupati di perdere il posto, tutti gli scienziati ci si misero di tosto. Fecero supposizioni, tabelline, calcoloni, indovinelli coi righelli, teoremi saccenti, soluzioni deprimenti. Si diedero alle parole incrociate, produssero schermate, spararono cazzate. Quando tutti erano ormai al lumicino, ecco che venne fuori il solito capoccione cinesino. A dire che l'unica cosa che si poteva fare era di farlo diventare cellula staminale. Una cellula staminale non se la passa male, può collele, vivele, saltale e soprattutto può diventare tutto. L'embrione prosciutto si fece spiegare tutto. Senza capirci un H per filo e per segno, al cinese staccò subito un assegno. Lo staccò come poteva, da embrione, con speciali protuberanze al silicone. Con una semplice sequenza digitale ebbe luogo l'opelazione finale. Da embrione prosciutto divenne cellula staminale. Lì, nell'indifferenza sostanziale del tutto, finalmente Pippo Prosciutto sentì di aver colto l'agognato frutto. Come cellula staminale poteva prendere qualsiasi canale. Poteva essere pelle, ossa, cuore, polmone, poteva perfino diventare un coglione. Uomo, rana, lattuga, gatto, cane, pesce, fico, ratto, sentì in un colpo solo finalmente di essere davvero divenuto onnipotente. Ma nella cieca sua vuotaggine di cellula staminale, quella sensazione di onnipotenza così terminale gli fu purtroppo del tutto fatale. Perché d'improvviso sentì pipì, non so, cicì, cocò, ninì, che quel suo stato era ancora fittizio, che doveva tornare ancora più indietro, all'inizio, là dove tutto comincia, principia e si sostanzia. Sentì che la vera soluzione finale era più a monte, nel liquido seminale. Certo, era un pensiero un po' maschilista, magari pure un poco fascista, più che un pensiero però era un sentiero, un percorso obbligato, lui per il femminile era sempre stato negato. Stavolta però fece tutto da solo, si arrampicò per quel canale di scolo, arrancò, sgomitò, sputazzò, sfiatazzò, finché di cellula in cellula, librandosi come eterea libellula, abbandonò la scorza staminale e si trovò a nuotare nel grande oceano seminale. In mezzo a quel mare spermatozoico si sentì tornare preistorico. Antico, ancestrale, uno schizzo di nulla nel vuoto siderale, e in un colpo solo capì finalmente che essere tutto voleva dir beatamente essere niente. Da qui in poi non sappiamo dire come Pippo Prosciutto andò a finire, per cui dobbiamo chiudere qui la storia che non abbiamo neppure imparato a memoria. Ma mascolini, giovani uomini, ragazzi, fate attenzione, vi facciamo un'ultima accorata raccomandazione. Quando al cesso le seghe vi tirate, quando di nascosto vi masturbate, quando insomma ogni tanto eiaculate, accertatevi che in quello schizzo di pura nullità, per vostra responsabilità, non nuoti proprio Pippo Prosciutto, pronto a ricominciare per riprendersi tutto. E se in quella goccia vagante lo scoprite nuotante, agite all'istante. Avete davanti una grande occasione. Tirate d'un colpo il vostro sciacquone.